testa strana. E guardo il cielo, ci sono le stelle e sto pensando a te. Voglio dirti due parole, sto ricordi di quei giorni. Sto aspettando che tu torni, sto aspettando che tu torni. Dove il mondo è lo stesso, perché non penso solo a me adesso, ma anche a te che sei la vita per me. Dove ci sei tu, il cielo è sempre più blu, e cerco un'emozione vera, tu sei entrata nella mia mente. So quello che si sente, non cancellato quei momenti, anche i più piccoli frammenti di questa vita, e non ha senso se io non ti penso e non ti cerco. Se cento volte te lo dico, forse sarò più che un amico. Tu sarai la mia stella, tu sarai la più bella, tu sarai la più bella. In questa notte di luna tu mi porterai fortuna, ora lo sai e poi vedrai, e questa vita voglio viverla insieme a te. Tutto è più semplice insieme a te. Insomma, voglio dirti che ti amo, non è mica strano. Sei tu che mi fai sognare adesso, il nostro sogno sarà lo stesso. Tu sarai la mia stella, tu sarai la più bella. Questa notte di luna tu mi porterai fortuna, insieme a te la vita inventerò. Non sarò solo se ci crederò, insieme a te la mia energia io brucerò. Non lo dico come tanti, ciò che fa andare avanti. Non lo nego, dammi un bacio, ti prego, ti prego. Tu sarai la mia stella, tu sarai la più bella. Questa notte di luna tu mi porterai fortuna. Sono ricordi di quei giorni, sto aspettando che tu torni. Dove il mondo è lo stesso, perché non penso solo a me adesso, ma anche a te. Sei la vita per me, sei entrata nella mia mente, e so quello che si sente.